Capitolo 24 24 Classi delle famiglie di Eleazar e di Tamari stabilite da David per il ministero del Signore. Nella stessa guisa sono distribuite a sorte le famiglie degli altri Leviti. I figliuoli d'Aronne furono divisi in queste classi: figliuoli d'Aronne, Nadab, e Abiu, ed Eleazar, e Tamar. E morirono Nadab e Abiu prima del padre loro senza figliuoli, e fecero le funzioni del sacerdozio Eleazar e Tamar. E David le divise, viene a dire, la famiglia di Sadoc figliuolo di Eleazzaro, e quella di Ahimelech della casa di Tamar, fissando i turni del loro ministero. Essi trovarono in molto maggior numero i capi di famiglia discendenti da Eleazzaro, che quelli di Tamar. Ed egli distribuì i discendenti di Eleazzaro in 16 famiglie con un capo per ogni famiglia, e quelli di Tamar in 8 famiglie, e le funzioni dell'una e dell'altra famiglia le tirò a sorte, perché tanto i discendenti di Eleazzaro, come quelli di Tamar erano principi del santuario, e principi di Dio. E Semeia figliuolo di Natanael della tribù di Levi, e segretario ne fece la descrizione alla presenza del re, e dei magnati, e di Sadoc sacerdote, e di Ahimelech figliuolo di Abiatar, e dei capi delle famiglie sacerdotali, e levitiche, prendendo alternativamente la casa di Eleazzaro, che era sopra le altre, e la casa di Tamar, che altre ne aveva sotto di sé. E il primo turno toccò a Gioiarib, il secondo a Gedeo, il terzo a Darim, il quarto a Seorim, il quinto a Melchia, il sesto a Maiman, il settimo ad Accos, l'ottavo ad Abia, il nono a Gesua, il decimo a Sechenia, l'undecimo ad Eliasib, il duodecimo a Iacim, il tredicesimo ad Opfa, il quattordicesimo ad Isbab, il quindicesimo a Belga, il sedicesimo ad Emmer, il diciassettesimo a Ezir, il diciottesimo ad Afses, il diciannovesimo a Feteia, il ventesimo ad Ezechiel, il ventesimo primo a Iachin, il ventesimo secondo a Gamul, il ventesimo terzo ad Alaiau, il ventesimo quarto a Mazziau. Ecco le loro distribuzioni secondo i loro ministeri, affinché entrino nella casa del Signore secondo il loro turno, secondo gli ordini d'Aaron e loro padre, come aveva prescritto il Signore Dio di Israele. Or gli altri figliuoli di Levi erano Subael dei figliuoli di Amram, e Gedeia dei figliuoli di Subael. E dei figliuoli di Robia era capo Gesia. Salemot figliuolo di Zari, e Yaat figliuolo di Salemot. Il figliuolo primogenito di Yaat Geriau, il secondo Amaria, il terzo Yaziel, il quarto Jekman. Figliuolo di Oziel, Misha, figliuolo di Misha, Samir. Fratello di Misha, Gesia, e Zaccaria era figliuolo di Gesia. Figliuoli di Merari, Moli, e Musi, figliuolo di Oziau, Benno, figliuolo ancora di Meranoziau, e Soem e Zakur, ed Ebri. Moli ebbe un figliuolo, cioè Eleazzaro, il quale non ebbe figliuoli. Figliuolo di Cis, Geramel. Figliuoli di Musi, Moli, Eder, e Gerimot. Questi sono i figliuoli di Levi secondo la diramazione delle loro famiglie. Ed egli neppure tirarono a sorte a imitazione dei loro fratelli figliuoli d'Aronne dinanzi al re David, e a Sadoc e ad Ahimelech, e dinanzi ai capi delle famiglie sacerdotali, e levitiche, i maggiori, e i minori, tutti egualmente tiravano a sorte. Note, Ahimelech della casa Ech. Abiatar aveva anche il nome di Ahimelech, v. 2. Le tirò a sorte, affin di togliere ogni occasione di querela e di gelosia. Principi di Dio. Principi e capi di grande autorità e potestà in tutto quel che concerne il culto di Dio. Un dotto interprete tradusse principi del santuario e principi dei giudici. Ognuna delle 24 famiglie sacerdotali aveva il suo capo, che era come un sommo sacerdote nella sua classe, quindi i pontefici e i principi dei sacerdoti, dei quali è fatta menzione così spesso nel Vangelo. 2. La casa di Eleazzaro, che era sopra le altre, ec. Eleazzaro era il primogenito di Aronne, Dio aveva promesso alla famiglia di lui il sacerdozio in perpetuo, numero 29, e questa famiglia era più numerosa, come si è detto. V. La famiglia di Tamar veniva presso, e possedeva in quel tempo il sommo sacerdozio. Due punti secondo gli ordini di Aronne. Per servire a Dio secondo gli ordini osservati fin da Aronne, e tramandati per tradizione a suoi posteri. Due punti su Bael dei figliuoli di Amram, ec. Egli era della famiglia di Gerson figliuolo di Mosè, e nipote di Amram. Egli è detto tesoriere del Tempio, cap. 24. Due punti figliuolo ancora di Merari, Oziau. Se queste parole si chiuderanno in parentesi, sembra che si leveranno le difficoltà, che nascono da figliuoli, che si danno qui a Merari, non rammentati in vero un altro luogo di questi libri. Ecco adunque come può ordinarsi la seconda parte del versetto. E il Benno figliuolo di Oziau, Oziau fu per figliuolo di Merari, e Soam e Zacur ed Ebri. Così Benno, Soam, Zacur ed Ebri son figliuoli di Oziau figliuolo, o nipote, o discendente di Merari. Due punti ed Eglino pure tirarono a sorte. Siccome i sacerdoti posteri di Aronne divisi in 24 classi erano stati tirati a sorte per sapere con qual ordine dovessero servire al tabernacolo, così pure i Leviti divisi in 24 classi una per ogni classe di sacerdoti, tirarono a sorte per sapere con quale delle classi sacerdotali dovessero servire nel loro ministero.